Benvenuto anche dalla parte nostra, cioè dalla casa editrice Edizione Venezia, che noi abbiamo pubblicato questo libro. Un grazie alla Biblioteca Provinciale di Lingua Italiana, che collaboriamo sempre volentieri, organizzano delle serate stupende. E questa sera presentiamo noi un libro nostro, che è Tutto è grigio ora per noi, un diario di una 14enne di Silvana Kummer Bolzanina, che ha scritto questo diario nel 43, cioè proprio in quell'anno dove Bolzano è stato bombardato. I dettagli poi ne leggeremo anche un po', e ne parleranno anche i due fratelli. Io per la mia vorrei solo raccontarvi forse un po' come Ferruccio è venuto da noi a presentarci questo progetto, che in originale aveva questa forma qua, e noi abbiamo pensato come metterlo, trasformarlo in un libro, e abbiamo deciso di farlo in una edizione bilingue, adatta anche per le scuole, soprattutto perché il testo scritto da Silvana, da una 14enne, è scritto in un modo anche molto adatto per i lettori anche di questa età. Poi non si limita solo a questa età, è anche piacevole leggerlo alla nostra età, cioè anche io lo prendo volentieri in mano qualche volta solo per leggere anche un pezzettino. Beh, visto che è un diario, si è costretto a leggerlo proprio dalla prima riga all'ultima, però si può anche iniziare in mezzo a leggere solo un piccolo pezzettino. Noi siamo stati molto volentieri, l'abbiamo pubblicato, con la traduzione abbiamo avuti problemi, però anche a leggerlo, perché non è tutto scritto in modo molto molto bello, visto che l'ha scritto anche in varie occasioni, cioè in scuola, forse in nascosto, treno. In treno, sotto banco, sì. Quando è stato a Trento con le bombe che sono in lingue strane. Sì, cioè anche poi in lingue strane, anche questo è un fatto da spiegare. Qualche parte del libro è stato scritto in francese, però in francese macaronico, cioè sì, nel senso, lei voleva nascondere vari fatti, soprattutto della madre, no? Sì, cioè, soprattutto quando cominciava a inventare fatti personali, anche sul piano affettivo, magari così, no? Altri fatti, soprattutto nomi, li ha scritti in greco per farlo, cioè ci ha fatto un po' di impegni a fare una trascrizione per prima parte, e poi anche una traduzione in tedesco. Poi anche abbiamo cercato di cogliere un po' quell'atmosfera, anche il linguaggio da giovane, da teenager, e secondo me ci siamo riusciti, e è venuto fuori un bel libro. E poi del contenuto ne parleranno, soprattutto del personaggio, della Silvana, parleranno i due fratelli, e poi abbiamo una piccola lettura del testo originale in italiano. Bene, innanzitutto devo scusarmi nuovamente della terribile gaffe precedente, spero che ve la dimentichiate, non me ne salviate ancora. I secondi ringraziamenti, i primi sono naturalmente alla biblioteca, vanno proprio alla casa editrice. Io devo dire che dopo anni di ricerche, avevo pensato di pubblicare il libro in un'occasione particolare, cioè addirittura avrebbe dovuto essere pubblicato, se possibile, nel 2003, in occasione della ricorrenza del 60° anniversario, se non sbaglio, di quell'anno terribile che è stato per tutta l'Italia, per l'Europa in generale, per l'Italia in particolare, per l'Alto Adige, ancor più in particolare, direi per certi versi, l'8 settembre del 43. Ora, dobbiamo tenere presente che quando Silvana scriveva queste righe, ovviamente non aveva la minima intenzione che fossero pubblicate. E anche tenere conto del fatto che io a quell'età avevo 3 anni, quindi io francamente della Silvana di allora ricordo veramente poco. Per cui quando frugando questa cosa terribile, dolorosa, ma necessaria, che capita sempre quando una persona cara muore, e cioè rimettere in ordine le sue carte, ho dovuto prendere in mano la veramente enorme quantità di documenti di vario tipo che mio padre aveva nei suoi vari cassetti, scrivanie, in soffitta, eccetera, eccetera. Mio padre è morto circa 10 anni fa, di 93 anni, e era bolzano insieme alla mamma, una persona abbastanza conosciuta, soprattutto nel suo quartiere, perché ero maestro elementare, nelle cui classi sono passate centinaia, se non forse migliaia di studenti, che credo, mi pare di sentire da quelli che incontro di tanto in tanto, che hanno conservato un bel ricordo di lui. Silvana era la figlia maggiore, e dicevo, frugando in mezzo a queste carte, ho trovato questo. L'ho letto io prima con grandissima commozione, e oltretutto conteneva, fra il resto, delle cose che spesso si infilano nei diari delle stelle alpine: una ciocca di capelli con un nastrino rosso che le legava, che lei se recentemente aveva conservato da un cambiamento di pettinatura. Lei aveva delle grosse trecce, no, come si usava coi tempi. E naturalmente ha provocato una notevole commozione in me, anche perché mi sono accorto che, oltre che a rievocare dei momenti che io avevo fino a quell'istante sentito soltanto per sentito dire, raccontate dai miei fratelli maggiori, perché fra me e mio fratello, che è il più giovane dei miei 3 fratelli, insomma, ci sono già 7 anni, quindi con Silvana ce n'erano più di 10, era ovvio che non ci fosse una comunanza di interessi quando io ero troppo piccolo. Io ho imparato a conoscerla molto più tardi, quando mi ha ospitato a Milano, all'università, e lì è nata veramente una comprensione reciproca, mi pare abbastanza particolare e interessante. Anche se già da piccolo, per me, credo anche per i fratelli, era un personaggio un po' speciale. Silvana era una donna, una ragazza, una bambina di grandissima sensibilità e devo dire anche di grandissima intelligenza. Il motivo per cui io ho pensato che valesse la pena di pubblicare il libro consiste proprio nella sua capacità di esaminare le cose, sia sul piano personale, familiare, no? Il rapporto con i genitori, il rapporto con gli amici, il rapporto con la scuola, il rapporto con l'apprendimento, così via, che mi sembrava a volte di tale profondità, di tale spessore, che valesse la pena che fosse messa a disposizione anche di altri, non soltanto di coloro che l'avevano conosciuta, ma anche di chi aveva interesse a vedere come, in fondo, una 14enne di quell'epoca, ripeto, siamo nel 1943, cioè veramente l'anno più terribile della storia italiana del Novecento, forse dopo la Prima Guerra Mondiale, insomma. E mi sembrava interessante vedere soprattutto come, curiosamente, sotto un regime così condizionante dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico, dal punto di vista proprio dell'impostazione della mentalità delle persone, una persona dotata di senso critico, di intelligenza, di cultura, fosse in grado anche di dire delle cose sorprendentemente controcorrente. E faccio notare che mia sorella era, come tutte le ragazze della sua età, era fascista, il Duce per lei era un personaggio al di sopra di ogni altra, no? E come, per esempio, nel diario è narrato, il 25 luglio, cioè la caduta del fascismo, per lei fosse stato un dramma terribile. Ciò non toglie che si permetta nel corso della narrazione delle osservazioni spesso duramente critiche, che arrivano a un certo punto, come poi eventualmente potremo anche leggere, di criticare il regime e di sostenere l'errore di essere entrati in guerra e soprattutto di essersi alleati con questo terribile regime che è il regime nazista. Dopo qualche mese mi è balenata l'idea, sto parlando di 10 anni fa perché veramente è stato un lavoro molto lungo, mi è balenata l'idea di provare a farlo pubblicare, ma anche lì ho dovuto affrontare qualche piccolo problema di tipo, come poter dire, morale, etico, perché potevo pubblicare questo diario, perché era un diario personale di una ragazza di 14 anni dove scriveva molte cose anche piuttosto riservate, nulla di, per carità assolutamente, che non si possa, che non possa leggere neanche un bambino di 8 anni, ma che manifestava l'intenzione di restare segreto, e che manifestava in certi punti, questo è un diario, nessuno lo leggerò io da grande, chissà quando rileggerò queste pagine da grande. Frasi di questo tipo sono molto frequenti, ma certamente l'ultima cosa che le passava per la testa era l'idea che il libro potesse essere, non solo cadere nelle mani di qualcuno, ma addirittura essere pubblicato e letto da qualche centinaio, si spera, meno di persone, no? Se le vendite vanno bene, caro Thomas. E quindi mi sono trovato di fronte a questa situazione, se è possibile fare un paragone fra i grandi e i piccoli, a cui si è trovato di fronte, è un paragone che ho già usato, mi scuserete se l'avete già sentito, a cui si è trovato, non so, Max Brod di fronte all'ordine del suo carissimo amico Franz Kafka di distruggere i manoscritti dei suoi libri, cioè lo potevo pubblicare, era giusto pubblicarlo. Mi sono consultato con la famiglia, no? Una famiglia piuttosto unita, Silvana per noi rappresentava un personaggio straordinario, a cui ci rivolgevamo molto spesso anche solo per consiglio, perché la consideravamo una persona speciale. E alla fine siamo arrivati all'opinione, alla decisione di pubblicarla tutta fino all'ultima virgola. E qui devo dire che addirittura, signor Carac, credo ringraziare, ma veramente in maniera profonda e amichevole, si è curato di questo libro come fosse una creatura sua. Molti dettagli che erano sfuggiti a me li ha trovati lui. Devo citare anche la collaborazione, per esempio, del professor Romeo, che ha trovato dei punti in cui Silvana fa dei riferimenti, che ne so, all'Eneide, che a me erano assolutamente sfuggiti e che invece lui ha puntualmente individuato. Devo ringraziare il professor Drummel qui presente, che ha letto, è stato fra i primi, penso, a leggere il diario, seppur naturalmente in manoscritto, in dattiloscritto, e che mi ha incoraggiato in questa direzione, trovando che il resto delle indicazioni sulla la spinta che avrebbe determinato in Silvana il desiderio poi di dedicarsi allo studio e soprattutto allo studio della malattia mentale soprattutto nei bambini, che potrebbe aver avuto origine proprio nella sua decisione di fare qualche cosa che aiutasse questo benedetto paese, che per certi versi l'aveva terribilmente delusa, ad avanzare e a progredire e a diventare un paese più giusto. L'operazione è stata proposta, per dire la verità, anche alle autorità della provincia per quanto riguarda l'istruzione, la scuola, la cultura e così via. Ho ricevuto molti, molti incoraggiamenti, pochi concretati, se me, in risultati pratici. Devo qui dire che una delle cose più interessanti, che sono assolutamente obbligato a citare, è il fatto che il libro sia stato tradotto in tedesco, con un lavoro veramente molto lungo e difficile, credo che ci abbiano lavorato in totale 4 persone per arrivare sì, no, a trovare le formule, si spera, migliori. Devo ringraziare in particolare l'assessorato alla famiglia cultura di lingua tedesca che ha finanziato la pubblicazione. Adesso a questo punto devo ringraziare anche, ad esempio, la sovrintendenza e l'istituto pedagogico, soprattutto nella figura di Milena Cossetto, della professoressa Milena Cossetto, che aveva già letto il libro a suo tempo, aveva fatto di tutto per farlo pubblicare e che si è impegnato ufficialmente proprio ieri, mi ha scritto una lettera deliziosa e qui dice che, visto che ne ha il potere, lo farà adottare nelle scuole perché venga letto dai ragazzi dell'età di Silvana. E perché io credo che vedere come funzionassero le cose, come si ragionasse, per certi versi in maniera abbastanza simile, per altri in maniera molto diversa, 60 anni fa, alla stessa età all'incirca, per i ragazzi delle scuole potrebbe essere, credo, un'esperienza notevole. Devo dire che non vorrei che fosse usato per dimostrare che a quei tempi si era più bravi, che a quei tempi si studiava di più, che a quei tempi si forse raggiungeva una, perché oggi ci sono altre cose. La scuola in cui insegno io ieri ha vinto il festival provinciale, che è un'iniziativa bellissima in cui i ragazzi hanno il modo di esprimere, di manifestare altre capacità, altre e quindi non vorrei assolutamente che il libro fosse usato per un ritorno al passato sul tipo basato sulle frasi detestatissime dei ragazzi come ai miei tempi, ma un tempo, a quei tempi, eccetera, eccetera. Dicevo che fosse letto semplicemente con semplicità, non considerandolo soltanto un documento storico, perché lo è per certi versi, ovviamente, come tutti i documenti, no? La microstoria è una parte importante oggi della ricerca, ma come veramente una piccola opera letteraria. Anche qui non voglio naturalmente I paragoni di questo tipo sono sempre un po' rischiosi, ma in sostanza è un piccolissimo diario di Anna Frank. C'è dentro veramente lo spirito di una persona che riflette su quello che le succede, riflette sulla famiglia, riflette sui suoi tempi e riflette anche sulla storia. La conclusione del libro poi si potrebbe forse trarre da una lettera scritta ma mai spedita alla migliore amica, in cui Silvana, dopo esser passata attraverso queste posizioni personali, politiche e religiose, era una persona molto religiosa Silvana, arrivò alla decisione che il nemico a quel punto era il totalitarismo, era il Terzo Reich, e che quindi sarebbe stato necessario schierarsi in quella direzione. Non sappiamo, questa lettera non fu mai spedita, l'amica non l'avrà mai ricevuta, però è stata trovata fra le pagine del diario ed è pensato di pubblicarla. Alla fine, sul piano personale, c'è, dopo la prefazione del professor Dunbar, che è qui presente, di Romeo, mia, c'è anche una postfazione che secondo me è molto bella, forse qualcuno ha conosciuto anche mia sorella Flavia, che è a Trento, in cui lei parla dei rapporti così difficili con questa sorella, perché avere una sorella così straordinariamente diversa, così straordinariamente impegnata in altre cose, sempre con la mente sempre immersa in qualcosa di grande, di importante, non è facile, è un'esperienza che io ho provato in un senso un po' diverso. Io ero il piccolino di famiglia, io sarei appunto il più giovane di tre fratelli Kumar. Avere davanti a me tre fratelli così bravi è stata una cosa veramente terribile, perché tutti si aspettavano che io avessi come minimo dei risultati a nave. Ma mi pare di avervi detto. Ma su un piano personale, a un certo punto, lo stesso fenomeno, sia pure molto mitigato, del fatto di sentirmi oppresso da questa presenza, c'è stato. Io non ho sentito mai il peso della presenza. Però mi è capitato, per esempio, al liceo, il professore di italiano, il professor Colaretta, che molti avranno conosciuto almeno di nome, che era un personaggio per me storicamente proprio importante, una persona di uno spirito liberale, di quelli come forse non esistono più, e che citava, diceva, come sì, lei è ben bravino, ma sua sorella, e lui l'aveva avuta solo alla maturità e si ricordava a memoria, citava pezzi del tema di maturità di Silvana, il che a un certo punto era un po' una rottura, insomma, ecco. Però non ho mai sentito un complesso oppure un senso di qualche distacco nei suoi confronti, assolutamente. Anche perché, se posso aggiungere qualcosa, secondo me quello che ha contraddistinto la personalità di Silvana è stata proprio la sua multiformità. Tant'è vero che, stranamente, ci sono moltissimi modi di ricordare la sua persona. C'è chi la ricorda come una persona molto seria, molto impegnata, non dico triste, ma insomma, ecco, di quelle veramente da prendere molto sul serio. Chi la ricorda anche come, non voglio dire una pazzerellona, ma una capace di divertirsi molto bene, di organizzare divertimento, rimane in un certo senso nella memoria di tanta gente quello che lei combinava quando si andava d'inverno con Don Vinotti, altra personalità che molti ricorderanno. Si andava in montagna, al rifugio Gardeccia, che sapete dov'è, andarci su d'inverno era un'impresa, e lì si restava isolati per una settimana almeno, anche di più, e con un gruppo di 20-30 persone. E lei era una grande organizzatrice di giochi, per esempio, cosa che, a dirlo anche a persone che l'hanno conosciuta e la ricordano, in un'altra veste, sì, appunto, è una cosa sorprendente e quasi incredibile. Questa poi maturità particolare e sensibilità così disponibile a variare, secondo me si riflette già in questo diario, proprio perché c'è una vera e propria trasformazione nel diario, dalla parte iniziale, che è un diario, si può dire, intimista, di quelli come potrebbe scriverli, bene o male che sia, un qualsiasi studente, studentessa della sua età, in qualunque tempo. Il passaggio poi a questo riconoscimento dell'importanza storica del momento che viveva e di maturazione, come si può dire, verso una sensibilità di tipo, si potrebbe dire, sociopolitico, a un certo punto è la cosa per me più sorprendente del diario, senz'altro, perché ci sono dei concetti di evoluzione, è proprio una vera e propria Entwicklungsgeschichte. Sì, perché è sorprendente e particolarmente importante questo passaggio dalla fase, come dire, infantile o quasi, poco più che infantile, o adesso, diciamo, preadolescenziale, a quello della maturità della persona ormai quasi adulta, o si può dire adulta, insomma. Okay, il diario termina sull'8 settembre. Che tutti sanno più o meno cosa abbia rappresentato per l'Italia, l'armistizio e la spaccatura in due fazioni contrapposte, l'inizio dei momenti più duri della guerra, e termina esattamente con alcuni episodi che le persone che abitavano a Renzo e che hanno ormai superato naturalmente una certa età, oppure che hanno sentito narrazioni di questo tipo, ricorderanno o hanno sentito perlomeno citare. Però già nel corso del diario ci sono dei momenti in cui sente il bisogno di parlare di quello che era il fenomeno, il più importante, più no, e anche più su cui le sue stesse idee erano evidentemente ancora abbastanza imprecise, che era la guerra. E quindi ci sono due o tre pagine sulla guerra in cui forse le cose più interessanti sono il fatto che a un certo punto Silvana, nonostante la propaganda a cui come tutta era stata sottoposta, chiedeva semplicemente la pace, e chiede che la pace venga a tutti i costi, a costi anche di essere sconfitti. La vittoria, che fino a un certo punto le sembrava ancora importante, perché era evidentemente ancora influenzata da questo tipo di atmosfera, a questo punto la vittoria non le interessa assolutamente nulla, le interessa la pace. E c'è una frase molto vera, fra parentesi, anche se mi stupisce forse. Dice: so benissimo che se fossero trovati questi miei scritti sarei imprigionata. È vero, però una persona scrive quello che pensa, e io nel mio diario voglio dire la mia opinione anche su questi fatti così importanti. Allora io direi che dunque se per caso professor Drumm, Hans, tu vorresti dire qualcosa, tu che conosci bene, prima che passiamo alla lettura? Ma io sono molto interessato a sentire la voce di questa giovane bellissima a invocare le frasi autentiche, e se mi chiedo perché siamo qua è proprio per sentire la voce, per certo verso in attesa, perché una ragazza di 14 anni, di 80 anni fa, ha qualcosa da dirci. E la sorpresa è che questa ragazza ha deciso in un certo momento della sua vita di fare una scelta drammatica a favore di un qualcosa che sembra piccola cosa, ma è una grande cosa, cioè di usare la propria testa. Proprio una scelta sofferta, perché andava contro i miti, contro la retorica, contro le esperienze culturali vissute veramente in modo molto forte, però ha deciso di fare la sua scelta di vita basandosi sul giudizio di una giovane 14 anni che aveva ottime letture, ottima cultura. E questo momento di scelta individuale giusta mi sembra il momento cardinale che questo testo ci può ancora dare oggi a noi. Adesso sono proprio curioso di sentirlo. Il brano che leggerà Anna è, diciamo così, si riferisce ancora alle osservazioni di tipo personale. Silvana si vede mamma di lì a qualche anno e scrive una specie di quindecalogo in cui pensa come si comporterà e come secondo lei dovrebbero comportarsi le mamme, soprattutto nei confronti delle figlie di genere femminile. Grazie. Come fugge il tempo? Di questo diario sono a metà. Se ora avessi la matita farei il panorama di quel che vedo dalla finestra, ma siccome di matite c'è penuria, faccio invece un memorandum che da tanto volevo fare. Per quando sarò grande, per quando sarò mamma. Ricorda, Silvana Grande, che tutto ciò che scrivo è provato. 1. Ricordati che tu stessa hai i tuoi piccoli pensieri. Non meravigliarti dunque se la tua bambina segue il corso della ruota. 2. Non credere che la tua bambina sia bambina e non capisca niente. A 12 anni sarà già abbastanza evoluta da por mente a un omaggio di un ragazzino. 3. Non tenere tua figlia troppo lontana dai maschi, se non vuoi che poi si trovi scentrata come me ed impacciata goffamente. 4. Lasciale un po' di tempo dopo scuola, se sarai sicura di lei, da chiacchierare con le amiche, come l'hai avuto tu, se non vuoi che se lo prenda o impari a mentire per giustificare il ritardo. E non credere di saperla in tal caso smascherare. Saprà presentarti delle prove inoppugnabili. Questo lo so non per personale esperienza, ma per discorsi delle mie compagne. 5. Non voler scandagliare l'animo di tua figlia con curiosità morbosa, ne può rimanere urtata. 6. Non aver paura, anche quando tua figlia avrà 15 anni, a chiamarla magari quando studia, quando lavora, con vezzeggiativo e a sorriderle. L'anima sua ne sarà come rischiarata. 7. Ma non farlo quando legge un romanzo di interesse. Tutta presa nella lettura ne sarebbe seccata e non sarebbe capace di apprezzare. 8. Non credere di essere stata un modello da giovane. Avevi anche tu i tuoi capricci, i tuoi desideri, le tue giornate burrascose. 9. Non meravigliarti se tua figlia erediterà i tuoi difetti. Ricordati che sei stata disordinata e irascibile. 10. Racconta episodi di quando eri piccola ai tuoi bambini, anche di qualche birichinata. Non ne saranno scandalizzati, ma si avvicineranno a te. 11. Cerca di rammentare la tua giovinezza per la tua figlia giovinetta. Lei ne sarà prima stupita, poi contenta e ti confiderà i suoi pensieri. Non potrà mai dire di non essere capita. Troverà in sua madre la camerata. 12. Cerca di essere sempre ben vestita per i tuoi figli. Il bambino fatto giovanetto uscirà volentieri con te. Ma non impastricciarti sino ad essere una caricatura. I bambini hanno un tremendo occhio critico. 13. Non urlare mai con i tuoi figli, se non vuoi essere chiamata nell'impeto di rabbia megera. Più saprai dominarti e abbassare la voce nella rabbia, più i bambini ti stimeranno. 14. Non picchiare mai per principio i bambini, se non lo farai da principio non ne avrai bisogno. Ma non risparmiare correzioni quando dicono bugie o si impuntano. 15. Prometti ai tuoi bambini che, se saranno capaci di essere buoni, giocherai con loro, sarà la ricompensa più gradita. E non avere paura del tanto lavoro, le bambine ti aiuteranno allora volentieri. E non pensare mai di essere vecchia, finché non lo penserai tu, non lo penseranno neppure i tuoi figlioli. Il quindecalogo è finito, avrà detto molte cose strambe, ma queste sono le mie idee, ed io rispetto ed esigo rispetto per le mie idee. Bene, grazie. Il brano successivo si riferisce a un'altra data importante della storia italiana, che è la caduta del fascismo, è datato 25 luglio, perché la notizia risaliva evidentemente al giorno prima e da Silvana era stata appena presa. Io avevo pregato Anna, non ho avuto poi la conferma, di leggere anche la seconda parte, perché Silvana ha avuto due percezioni diverse di questa caduta, quindi vale forse la pena di leggerle tutte e due. Cioè, a un certo punto le notizie in arrivo sono state rettificate, come capita qualche volta anche oggi, basta ascoltare i nostri mass media, no? Televisivi e radiofonici. 26 luglio, no? 26 luglio. Il fascismo è caduto, il Duce ha dato le dimissioni. Io sono come uno straccio, tutto ciò che fino a ieri era vero, oggi non è più vero. Mi hanno strappata la fede, mi hanno calpestata. Ti insultano, Duce, ti maledicono. Che tutte le lacrime che cadono dai miei occhi, che tutto il fiele e il dolore di cui sento ora l'amaro sapore, lavino, Duce, questi insulti. Tu sei stato grande, tu sei grande. Io ti ammiro mille volte di più. Qualunque cosa accada, io ora fo giuramento. Non mai minacce, insulti, rovesci faranno sì che io ti dimentichi, che io disprezzi. Tu che hai amato la patria nei giorni torbidi, che hai cercato di ingrandirla con ogni mezzo nei giorni felici, che sei andato con lei nel cuore a far proposte di pace. Poi hai errato, amavi troppo, Eri cieco, non vedevi che le sue grandezze, non ti accorgevi delle sue miserie, hai sbagliato. E si deve per questo maledirti? Tu volevi ingrandirla, gli strumenti non hanno risposto. Poi, uomo forte, hai saputo pagare il tuo errore. Hai riconosciuto che la tua presenza nuoceva all'Italia. Hai capito che i nemici si accanivano contro di te. Allora sei scomparso. Hai lasciato le redini ad un altro, il più degno degli altri. Hai visto che in tal modo riconoscevi di aver sbagliato. Riconoscevi che il lavoro di 20 anni di fascismo era stato vano. Ma non hai esitato. Per la patria, sul suo altare, hai immolato te e quel che più vale, le tue idee. Ora ti insultano, ma mai, Duce, mai, né quando salisti al governo, né dopo la vittoria etiopica, né nelle giornate luminose di questa guerra, fosti come ora luminosamente grande. Ed io mi inchino alla tua rinuncia, ed io ti venero come prima, più di prima. Tu hai resistito, sei ancora gigante sfortunato sul piedistallo. Nel frattempo arriva la versione un pochino più corretta della caduta del Duce, che come sapete non è andata, come Silvana scrive in queste righe, e quindi c'è questo notevole cambiamento di rotta, di opinione, di giudizio, no? 29 luglio. Rettifico. Egli è caduto. Contrariamente al creduto, si è fatto scacciare. Questo non doveva farlo. L'hanno chiamato vecchio corruttore. Io non so più difenderlo. Lo insultano con le parole, la stampa, la radio. Io non so più proteggerlo. Non so e non voglio. È stato scacciato. Lui non voleva. Ha tentato di tutto, ma è stato eliminato dagli stessi suoi fidi. Però non per questo sono contenta. Io fino a ieri ero con lui. Avevo fede in lui. Perciò non lo insultavo. Ieri invece gli altri, la grande massa del popolo, lo odiava. Pochi lo ammiravano, i giovani forse. Pochissimi lo benedicevano. Ed hanno taciuto i vigliacchi. Hanno strisciato i suoi piedi. Hanno fatto di ipocrisia il loro mantello. Ora soltanto, ben sicuri che egli non potrà più nuocere, si sono drizzati a scagliare insulti e sarcasmi contro il fu capo. Ma chi dei due è il più vile? Sono questi forse gli inetti di cui egli parlò? Non chiacchiere ora, ci vogliono mai fatti. Arruolatevi tutti, voi che tanto urlate. Vestite il grigio verde. Giovate alla patria per mezzo del sangue e non dei comizi elettorali. Il popolo italiano ha bisogno di un duro pugno che lo regga. È altrimenti senza disciplina, senza regole, senza ordine. Vuole ricchezza senza lavoro, vuole pane senza fatica. Ieri lui solo, il capo, oggi già 5 partiti. Ieri lui, sicuro, dominava. Ora suoi uomini litigano e si affannano per le loro aspirazioni personali. Badoglio no, Badoglio è quel che si dice in gamba. Di lui non parlo, anzi sì, parlo per lodarlo. È un uomo che ha una coscienza. Ha abbandonato il suo grado perché sapeva di non poter vincere. Perché sapeva che inutilmente avrebbe sacrificato tanta giovinezza. Gli americani ci hanno dato 48 ore per fare la pace. Già, ma con i tedeschi, gli odiosi tedeschi, come ce la caviamo? Ora, caduto il fascismo, nessuno più ci odia, essi soltanto. La atavica rivalità è venuta a galla. L'opera di 5 anni non può cancellare quella di 25 secoli. Essi sono i nemici primi, non gli altri. Essi, che Dio li schiacci. Qui c'è un evidente cambiamento di rotta e anche ancora molti evidenti errori di prospettiva, però già il fatto che la caduta del fascismo sia vista sotto un altro punto di vista e che si stia cercando di individuare quali sono i veri problemi che attenderanno l'Italia in quel momento e che consisteranno soprattutto nel liberarsi da questa alleanza poi estremamente impopolare con la Germania nazista, mi sembra già notevole. Ma la parte più interessante da questo punto di vista viene verso la fine del libro e viene proprio contatto quasi diretto con la guerra. E si tratta della descrizione dell'8 settembre, che si conclude con una frase che molti di coloro che hanno letto il libro e di coloro che ne hanno anche scritto qualche pagina di commento, di recensione e di introduzione, come ad esempio il professor Drumble, hanno individuato come la fase più importante del libro, cioè il momento in cui sembra di vedere una qualche speranza e si ha un atteggiamento di apertura perfino verso quello che nel momento del libro, nel passo del libro che ha appena letto Anna, sembra il nemico per eccellenza, cioè il tedesco. Qui devo fare una piccola parentesi. Quando Silvana parla di tedeschi, non parla assolutamente di sudtirolesi, parla di Germania, parla di nazismo, parla di... No, questo per evitare equivoci sgradevoli, non per nulla abbiamo fatto tradurre anche in tedesco, proprio perché queste cose fossero molto chiare, no? E quindi passiamo, direi, proprio alle... Posso fare un piccolo inciso? Senta. Io avevo un'età in cui non si maturano le idee, ma ci sono i ricordi. E abbiamo proprio, stimolati dalla lettura di questo diario, abbiamo confrontato le reazioni mie e di mia sorella Flavia nel momento della caduta del fascismo. Per noi è stato un momento di grandissimo sconcerto, né di delusione né di risentimento, ma di sconcerto tremendo. Io, mia esperienza personale, il giorno della caduta del fascismo, il 25 luglio, io ero a Brunico a un corso allievi caposquadra Balilla Moschettieri. E i nostri istruttori, che ci magnificavano Mussolini, il fascismo, e gli eroi, e la guerra, a un certo punto, il giorno della caduta del fascismo, quel porco, finalmente, l'era ora... Noi siamo rimasti sbalorditi, la stessa sensazione, fino al giorno prima, sì, la sensazione identica l'aveva avuta, non avevamo mai parlato stranamente, l'aveva avuta anche mia sorella Flavia. Quindi non abbiamo maturato un atteggiamento critico né in un senso né nell'altro, ma siamo rimasti quantomeno sbalorditi. Noi che avevamo giurato il giorno prima fedeltà agli ordini del Duce e cose del genere, con quelli che ci dicevano è giusto far così, e il giorno dopo questi che ci dicono no, era ora che cadesse. Quindi è stato un momento veramente difficile da superare, come si vede, per chi aveva già una certa maturità. Per noi era semplicemente incomprensibile. Chiudo. 8 settembre. Perché l'anima non trasale come in attesa di qualche cosa di arcano che aleggi nell'aria? Perché le minacciose bocche dei pezzi tedeschi puntate sulle nostre caserme rimangono ostinatamente mute? Perché gli alberi non si chinano proni verso la terra all'annunzio della vergogna? E perché a quell'annunzio le mani si sono strette ed il cuore ha esclamato finalmente e le gambe si sono messe proprio da sole a danzare la tarantella? E perché infine non si voleva credere ed il pensiero che l'armistizio significava aver perso la guerra non ci ha neppure sfiorati? Perché semplicemente siamo umani e l'egoismo è messo di solito in cima alle nostre azioni, prima noi e poi il resto. E l'istinto ci ha fatto ridere anche se il cuore avrebbe dovuto piangere. Ed il cuore, tra poche ore, avrebbe tremato di angoscia e di spavento. Ore 3 di notte. Perché nel sogno quel rumore cupo? Perché quei brontolii nel sonno? E perché, anche con gli occhi sbarrati, il rumore tremendo continua? Notte tremenda. Papà è spaventatissimo. Tutti i grossi e piccoli calibri puntati su Bolzano sparano. Le mitragliatrici sghignazzano su due case vicine alle nostre. Rimpiango ora di non essere uscita a vedere, ma l'istinto della conservazione è il più forte in noi. Ed io avevo troppo sonno. Così mi sono addormentata anche giù nella vasca, in lavanderia. Sì, eravamo scesi laggiù, perché era il posto più sicuro, ed avevamo un tavolino sulla testa. Oh, non sorridere, vecchia Silvana, che leggi questi fogli. La piccola Silvana di adesso non ha davvero sorriso. Ma per questo non un solo pensiero di morte ha sfiorato il mio pensiero, e non sono riuscita a dire con convinzione l'atto di dolore. Ore 5. Tutto è cessato, torniamo a dormire. Ancora non ho avuto il tempo di riflettere. L'alba. Dalla parte di Cardano gli alpini sparano ancora. Fino a quando? Ore 10. Passano camioncini tedeschi. Ufficiali italiani, pallidi e bendati, vengono portati via, prigionieri. Ma ancora, all'est, qualche sparo isolato. Ore 12. Vogliamo partire con i sacchi da montagna e le biciclette, ma una salva di spari rimanda il nostro proposito. Non importa, partiremo più tardi. Ore 18. In marcia. Io ho il mio pacco e la mia bici. Papà il suo, molto più pesante, benché non me lo dica, io indovino che papà non si sente bene. Ora la mia penna si impunta e non vuole scrivere. Ed anche le mani tremano. Era una lunga colonna di alpini, lunga, lunga, ed essi erano impolverati, ed alcuni feriti anche. E passavano senza armi, vinti. Passavano ed io dovevo bere il calice sino all'ultimo. E soltanto piangere, piangere, e non guardarli, perché altrimenti mi sarei incolonnata anch'io e avrei marciato con loro. E avrei scontato con loro che cosa? Soltanto il delitto di aver obbedito agli ordini e di aver resistito fino all'ultimo. E le lacrime rotolavano giù per le guance, e il capo si piegava verso la terra, perché la vergogna era troppa. Due soli tedeschi scortavano tutti quei nostri alpini, due soli ed armati, e uno in coda, che sono tre. Ma io non ti dimenticherò, buon tedesco che eri in cima, e non avevi il viso oltraggiante dei tuoi compagni, no. Era un vecchio viso, triste e serio, e potrei anche dire di aver visto delle lacrime nei tuoi occhi. Perché, vecchio tedesco, perché? Su questo perché si chiude il libro, è evidentemente un perché che lascia molte prospettive aperte, ma aperte proprio nel senso di positive, insomma, no? Di positive e significative nel tentativo della ricostruzione di un rapporto tra due popoli che in quel momento sicuramente non si amavano, e semplicemente per aver visto anche sul volto dell'altro un cenno di pietà, di comprensione, di umana comprensione. Il libro è, grazie Anna, intanto, ve l'ho presentata, Anna Bernard, seconda licea scientifica, la mia studentessa, molto brava, fra il resto è reduce dalla straordinaria vittoria dell'Istituto Leinerum nel testo a cui ha dato una parte notevole. Ho scritto un pezzo e poi l'ho... Sì, ma temevo che fosse senza voce, perché i ragazzi in queste case si sgolano, non mi ha preoccupato per questo fatto. E, mi sembrava giusto presentarla, perché si è prestata molto volentieri, molto gentilmente per questa cosa. Io devo precisare alcune cose. Il libro è anche arricchito di un notevole apparato critico, perché ci sono molti passi che sono piuttosto complessi, difficili. Questo famoso francese semi-inventato, no? lo studiava poi da quell'anno, insomma, quindi ha preso quel poco che sapeva, l'ha un po' italianizzato in modo da renderlo un po' segreto, insomma, un po' misterioso, da non permettere intrusioni troppo facili nella sua intimità. L'edizione, questa edizione è arricchita fra l'altro da una serie di illustrazioni, di disegni che sono in parte di mano di Silvana, che aveva una notevole, insomma, capacità in questo campo, che dimostrano per il resto come anche lei pensasse a cose come la moda. Ogni tanto si faceva dei modellini che sognava di poter, come anche lei avesse delle preoccupazioni normalissime in una ragazza della sua età, quella per esempio di avere qualche chilo di troppo, e ogni tanto in greco scrive che le sarebbe piaciuto essere un po' più snella, insomma, no? Quindi questo per capire che, a parte i passi così impegnativi, si tratta anche di una lettura che ci presenta fortunatamente una ragazza di 14 anni, sia pure dotata di certe particolari capacità, è una ragazza di 14 anni vera, insomma, autentica, no? Ecco. Silvana è morta ormai più di 20 anni fa, è morta a Milano, lavorava all'Istituto Besta e si occupava soprattutto dei problemi del linguaggio dei bambini. È interessante questo fatto che poi voi hai lavorato nell'ambito del linguaggio. È morta ahimè di un tumore al cervello, è stata operata ma non c'è stato nulla da fare. E il dramma più grosso è stato, il più grande, è stato naturalmente sia quello dei familiari che le volevano bene e degli amici, ma anche quella dei pazienti, perché in quel campo il rapporto paziente, soprattutto quando si tratta di bambini, è estremamente importante, e cambiare dottoressa per un bambino che sta faticosamente recuperando queste capacità di tipo espressivo così via, è veramente difficile. E quindi una delle cose di cui si preoccupava di più quando ancora era in grado di ragionare e di parlare, era proprio la sorte dei suoi piccoli bambini. Un'ultima precisazione un po' banale. Il libro, i miei nipoti di Milano, che si chiamano Paola Bruno e Marco Bruno, non hanno voluto, hanno rinunciato a, a diritti d'autore, e quindi nessun appartenente alla famiglia Kummer ha degli interessi materiali in questa pubblicazione. È stata fatta perché ci sembrava che valesse la pena di farla e di donarla alla comunità, se la comunità la gradirà. Se c'è qualche domanda, siamo a vostra disposizione. Chi poi forse vuol dare un'occhiata all'originale, sì, l'originale, è veramente bello, anche i disegni, ho messo dentro anche, anche i disegni. Prego. Sì. Purtroppo era troppo costoso metterli a colori, sarebbero stati anche colori, ma insomma, il budget era un po' limitato. Leggerlo, questo punto. Arrivederci. Scusi, posso chiedere solo se all'interno del diario c'è qualche accenno al mondo della scuola, del tempo? Sì, sì, alcune osservazioni piuttosto interessanti le ha fatte proprio il professor Drumble nella sua introduzione, in cui dice che già sembra quasi che come studentessa Silvana si rendesse conto anche della inutilità o perlomeno della scarsa opportunità di alcune parti di quelle che le veniva fatto studiare. Non so, nel francese aver letto degli autori, se non ricordo male, del Settecento, insomma, non particolarmente significative per una ragazza della sua età, forse non è il massimo. E devo dire che evidentemente il fatto che lei scrivesse in classe tanto in tanto, che facesse delle osservazioni sui compagni, che notasse le scritte che comparivano sui banchi, perché si usava, no, incidere i banchi per lasciare frasi memorabili, cose del genere, dimostrano che era una studentessa attenta. E il professor Romeo è andato a cercare anche le sue pagelle. A quest'età direi ancora piuttosto portata più ai rapporti amichevoli con le compagne, con i compagni, a qualche sguardo magari scambiato con qualche ragazzo, così via. Aveva forse addirittura, ma vi sto raccontando tutto il libro, non bisogna con il libro, una vaga simpatia platonica per un bell'ufficiale che visitava ogni tanto la nostra casa, che era oltretutto anche un buon pittore. Insomma, voglio dire, è una ragazzina che ha saputo però evidentemente andare al di là di quelli che sono solo gli interessi tipici di questa età, ma aveva anche quelli, insomma. Tra l'altro l'inserimento nella cultura del tempo era avvenuto anche attraverso un altro strumento, che era quello, forse nessuno ricorda o quasi, dei cosiddetti ludi juveniles. I ludi juveniles erano un'istituzione culturale del fascismo che aveva alcuni temi di cultura che dovevano essere sviluppati all'interno delle scuole ai vari livelli. C'era poi un concorso, prima provinciale, poi nazionale addirittura, nei quali questi venivano premiati. E lei aveva vinto una di queste categorie, i ludi juveniles, per la provincia di Bolzano. L'accenno di questi ludi c'è nel quadro di Ama, non c'è più al museo, la sua cintola. No, lì c'erano dei. Parlavano proprio di. L'hanno chiuso pochi giorni fa. Ragazzi con la nera. Sì, sì. È vero, sia nel campo sportivo sia nel campo. Quindi, tanto più valido questa evoluzione, nonostante l'inserimento massiccio nell'ambito di un certo spirito del tempo, insomma. Certo, caro. Bene. Se nessun altro ha nulla da. Qualche curiosità da soddisfare, così penso che possiamo. Vi ringrazio di nuovo molto, allora, grazie a voi. Ringrazio molto anche Anna che ci ha rifatto cioè, ha fatto veramente sentire le parole di Silvana. Vi do appuntamento per chi fosse interessato. La prossima settimana abbiamo la presentazione del testo Momenti, che sono delle poesie di Silvano De Marchi con Oita in Calabria. A proposito di poesie, nel libro ce ne sono alcune di piuttosto notevoli. Sì. Disegni, poesie. Questi libri qua sono in vendita. Sì, sono in vendita, sono 15 euro.